Druido e mago, voi contribuite a un attacco con 4 unità di energia ciascuno. Lo scudo del nemico ne assorbe 3 ad ogni colpo e solo le unità restanti possono provocare danno. Di queste ne servono 50 per sconfiggerlo. Quanti attacchi dovrete preparare?